ambre magi di pini. I mini, faccio le rime nini. Non ho più rime nini. Apri il bikini. Piatto le tende sul letto vuoto di un torrente che si riempie. Chissà se poi sì. Ho portato il salvagente, ma escono i picchetti. Si staccano i picchetti, se non picchietti si spicchettano i paletti. Ma che campeggio è questo qua? Il bagno è di qua, ma la doccia è di là. Mi assale l'animazione che propone formazione all'immersione, corsi di liposuzione, acqua giù con le ciccione. Sì, ma la mattina ore 6 meno 9, attenzione! Hey, guarda che mare che abbiamo, ora andiamo e ci tuffiamo. Dai, in città ce lo sogniamo. Questo qui è bello. No, scusa.